Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Quali saranno le nuove vie di accesso alla gratificazione individuale, ad essere riconosciuti, quindi a una riconoscibilità che ci gratifichi in quanto persone a cui altri riconoscono dei meriti? Beh, ancora la maniera migliore è farsi vedere ed essere visti. Essere visti ancora soprattutto in televisione, anche se il mezzo televisivo è piuttosto retrocesso nella gerarchia degli strumenti di visibilità, o perlomeno è molto destinato a un pubblico in via di estinzione. Ma rimane il fatto che negli ultimi 50 anni ogni persona che ambisse ad avere una forte soddisfazione personale nel pubblico riconoscimento è dovuto passare attraverso alcune porte molto strette che via via magari si sono allargate. Le forche caudine del passaggio dall'anonimato alla celebrità, la visibilità, l'essere famosi, che è diventato anche il titolo di un famoso spettacolo televisivo, un reality destinato appunto alla risumazione di personaggi che sono decaduti dalla loro condizione di fama, ha determinato la necessità di avere qualcuno che decida chi passa e chi non passa. Una sorta di Caronte o di personaggio che traghetta lungo questo sinistro fiume che divide, appunto, che separa l'umanità dal luogo dell'ombra perenne, dell'anonimato, della vita vissuta come ci è data dal destino di vivere, e la forzatura, l'entrata nel grande paradiso in cui tutti siamo riempiti da una luce che non ci appartiene ma ci è data dal luogo stesso, e in cui naturalmente finalmente il mondo si accorge che esistiamo. Per cosa esistiamo? Non è importante quali sono le nostre qualità, i nostri meriti, i talenti che possiamo esercitare. L'importante è traghettare dall'altra parte. E proprio in questo, naturalmente, si è organizzato e costruito un importante e interessante mercato. Qualche giorno fa, una settimana fa, Repubblica fece un'inchiesta sui finti casting, cioè la fabbrica delle illusioni che pare che 100.000 ragazzi all'anno passino attraverso meccanismi del tutto fittizi, del tutto illusori, che in realtà sono mirati o a estirpare velocissime intime d'azioni da poveri ragazzi e povere ragazze che altro non sperano, credono, si illudono di poter avere che un attimo di immeritata notorietà. Altro per meccanismi per spremere soldi alle famiglie che molto investono in quella fanciulla particolarmente dotata, in quel ragazzo dal ciuffo ribelle così bravo a cantare, così bravo a muoversi in pubblico. I piccoli orsetti ammaestrati, i piccoli esseri da circo che nel circolo familiare gratificano nonni, zii e nipoti, c'ha una carriera davanti, dovrebbe fare l'attore. Questa frase terrificante pronunciata in tante famiglie italiane ha portato al disastro, alla rovina, all'abiezione più totale. Programmi televisivi illuminati come Le Iene, come Striscia Notizia, ogni tanto mostrano questi signori, sono sempre esseri viscidissimi, schifosi, con lunghissime unghie al mignolo delle mani che già dimostrano la loro incapacità a potersi relazionare in qualsiasi affare che non abbia per loro un sordido profitto, che prendono questi ragazzi, promettono fantastiche meraviglie, poi alla fine, nella migliore delle ipotesi, le ragazze sono consigliate di andare a battere in club privati e i ragazzi non vogliono nemmeno dire quale sia il loro devastante destino. Beh, oggi dedicheremo la puntata appunto ai finti casting. Vi è mai successo, è mai accaduto di non riuscire a resistere alla tentazione di rispondere a un annuncio, di seguire un cartello, di portare un figlio, una figlia, un nipote, una nonna, un nonnetto in carriola in un casting per vedere se poi anche lui potrà essere una valida fonte di profitto per la famiglia, ma avere la gioia di esistere? O voi stessi vi siete mai sottoposti a queste infami forche caudine che vi hanno fatto precipitare nella più sordida abiezione? 800 24 00 24. A che cosa ti senti più portato? Al comico o al drammatico? Ma indifferente, diciamo che ho una certa gamma, ecco. Ok, veniamo al sodo. Occorrono 250.000 lire e sono pure poche. Che c'è? Ti vedo esitante. No. Non ho capito, Sei tra Yul Brynner e Richard Burton. Mica pizza e fichi. E sai che faccio? Ti combino anche un appuntamento con Simoni. Simoni? Sì, il grande Carlo Simoni. Ha appena aperto una scuola di recitazione. Un'officina, come la chiama lui. Io a te t'ho capito, sai. Tu sei troppo buono, tu ti devi svegliare. E se a te non ti sveglia Simoni, non ti sveglia nessuno. Oh, con me sei caduto bene. Venga, sono due da 100 e una da 50. Posso avere una ricevuta? Non c'è bisogno, mi fido. E infatti il Simoni fece moltissimo per il buon Pozzetto, questo ragazzo che tentava di fare l'attore di cinema. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Questo film è dell'80, però è sintomaticamente preveggente di quella che è una realtà che oggi vediamo rappresentata nel pezzo di Repubblica. Era l'inizio della televisione commerciale, già cominciava a dare i suoi segni, e non a caso Risi pensò di fare un film che già dava il destino, tracciava il destino del povero ragazzo che cercava di fare fortuna nel mondo dello spettacolo, che è una sorta di anticipazione di quello che oggi è il Tronista. Ma già il Tronista è una figura vecchia, deleteria, appartiene a qualche anno fa. Sì, però qui la televisione non era ancora tentacolare, anche se stava nascendo la TV commerciale. Ancora al cinema. Qui siamo ancora al cinema, qui c'è l'avvocato Pedretti, che è lo strepitoso, uno dei caratteristi più incisivi della storia del cinema italiano, ovvero Aldo Maccione, prognatico, con questo nasone, con questo capello impomatato. Qui fa l'avvocato Pedretti, che estorce denaro al candido Renato Pozzetto, questo bamboccione assonnato che arriva dall'Aveno e gli lascia tutto il suo denaro, insomma, quindi... E rappresentava esattamente quello che era a Cinecittà l'estorsione, il taglieggiare questi sognatori che arrivavano dalla provincia, che oggi però almeno sognavano di andare su un grande schermo, sognavano di entrare nel mito. Maccione ha incarnato un ritratto antropologico che poi è stato subito risucchiato dai francesi, Aldo Laclasse, chiamato lui in Francia da anni, molto più famoso che in Italia, perché rappresentava quelle caratteristiche già allora. Già, lui era dei Brutus, attore torinese che è passato dai Brutus a incarnare questa sorta di uomo laido, fintamente dedito alla classe, appunto alla seduzione, anche il modo di camminare, al modo di atteggiarsi, che rappresentava certe virtù e certe aberrazioni dell'italiano. E qui Risi lo usa al suo meglio. Ecco, poi Pozzetto avrà una sorta di devastante incontro col grande attore, che in realtà era una sorta di compare, si approfittava di questi ragazzi per sue carisma ancora in uso, ovviamente, particolari passioni. Sì. È interessante il precedente, vedo che non l'abbiamo messo, mi sembra, nella nostra rassegna, però non possiamo non citare Bellissima. Sì. È alla base di tutto. Quando Anna Magnani si fa portare sul greto della Marana, del fiume, da Walter Chiari, che tenta quasi un approccio carnale, e lei capisce benissimo che i soldi che gli ha dato per far fare il provino alla figlia serviranno per comprarsi la Lambretta, è l'inizio di tutto l'elemorismo che verrà dopo. Sì, quella era la smania materna di identificazione con la figlia, il riscatto della perfetta piccolo borghese Anna Magnani, utilizzata da Visconti, che appunto attraverso questa bambina normale, né particolarmente bella né particolarmente dotata, cerca una sorta di riscossa sociale, e poi trova il tombeur de femme Walter Chiari, che la insidia, insomma, che è altra figura chiave e molto precisa all'interno di quel cosmo. Allora, per una Lambretta ci si vendeva, ma sì, erano gli anni 50. Gli anni 50. Si cercava di arrivare al cinema come mitologia. 800240024. Questa mattina vorremmo dare anche un contenuto di servizio a questa trasmissione, visto che siamo qui al servizio dei nostri ascoltatori. Se mai potessimo noi contribuire in qualche maniera alla vostra fortuna, a realizzare il vostro sogno, questa mattina saremo qui per acquisire i vostri talenti. Talenti solamente orali, perché alla radio naturalmente si può soltanto immaginare altri talenti, però quello che riuscirete a interpretare, imitare. Una volta facevamo una bellissima trasmissione e creammo delle suonerie per il telefono con l'imitazione degli spari nei film di Sergio Leone, nel western italiano. Oggi siamo pronti a tutto: imitazioni di animali, imitazioni di treni, imitazioni di fantastiche situazioni affettive, imitazioni di noi stessi. Chi vince, che magari ci staranno ascoltando importantissimi agenti, come spesso è accaduto, e magari questa potrebbe essere la vostra grande occasione. Marcella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo. Cosa sa fare, sì. Marcella? Come, scusi? No, le chiedeva a Sansonna qual era il suo talento. No, non mi aspettavo questo show, diciamo, in linea. Dunque, io studio canto da molti anni, canto moderno, canto jazz, e quindi cerco di esibirmi, insomma, quando possibile, cerco di divertirmi anche e magari di trovare anche qualcosa di interessante. Ha avuto delle devastanti esperienze di casting? Sì, mi sono salvata, nel senso che... Le racconti poi... con dovizia di particolari, non omettendo nulla, naturalmente. Certo, certo. Sì, un giorno ho risposto a un annuncio in internet che proponeva di presentarsi a Milano, in zona Lambrate, presso uno studio discografico che aveva dei contatti molto importanti. E cercavano cantanti con le sue caratteristiche. Scusi? Delle cantanti cercavano, sì, con sue caratteristiche. Sì, sì, con una base a scelta, in italiano e in inglese, da poi da cantare al momento. Lei con che pezzo si presentò? Io sono andata con un pezzo di Elisa che si intitola Feast for Me e ho cantato perché credo di cantarlo molto bene. Potrebbe accennarcelo soltanto? If there's a feast for me, just a bad surprise. Ho la pelle d'oca. Non avrei avuto dubbi, era perfetta. E invece cosa accadde? Diciamo, il mio pezzo fu abbastanza apprezzato, soltanto che, ecco, la cosa che mi sembra strana... Ti stai parenzizzando, che è uno dei peggiori limiti che potrei darti. Dai. Ecco, inizialmente mi hanno chiesto subito di pagare una tassa di iscrizione. Soldi subito le chiesero? Sì, sì, subito. Prima ancora di cantare. Come? Prima ancora di cantare, di esibirsi. Sì, prima ancora di cantare mi hanno detto che se volevo partecipare al provino avrei dovuto spendere circa 20 euro come tassa di iscrizione. Iscrizione a che cosa non lo so. Vabbè, lei ha dato i 20 euro perché è una, sì, cifra. Sì, ho dato i 20 euro come tutti. Poi? Insomma. Dopo è successo che dopo la mia esibizione ce ne sono state altre e poi il commento è stato che io sarei stata data a qualche club di New York. Che aveva una voce molto bella, ma in Italia non c'era spazio. Già, non erano adeguati al suo livello. Ecco, infatti, anche se voglio dire, allora avrebbero potuto anche dirmi di presentarmi solo per un certo genere. Vabbè, comunque, allora come è finito? Niente, alla fine, dopo aver sentito alcune persone, non eravamo in molti, ci hanno proposto comunque, in ogni caso, se avessimo voluto, di pagare un soggiorno di 3 giorni in un hotel a 4 stelle al sud, in una località marina tipo? Molto bella. Guardi, sinceramente non mi sembra Castellammare. Vabbè, scusi, da New York a Castellammare esiste appunto qualche lieve differenza. Esatto. La proposta era quella di passare 3 giorni in questo hotel a 4 stelle in cui avremmo dovuto pagare il soggiorno, sì, sulla pensione piena. E a fare cosa? E a trascorrere delle giornate lezioni di gruppo con esperti, non meglio definiti, che avrebbero dovuto valutarci e dirci se noi effettivamente eravamo portati per quindi la carriera. Quindi alla fine era una bieca maniera per vendervi un pacchetto di 3 giorni, sì, in un albergo. Esatto, esatto. E anche mi hanno detto se vuoi partecipare non ci sono problemi. Allora io ho detto no, che non avevo tempo e non potevo. È finita così. È finita così. Vabbè, quindi con 20 euro alla fine è andata a vedere le carte, ha capito che era una truffa. Chissà se ci sono altre persone che sono passate per situazioni del genere. Questo era chiaramente un escamotage bieco di venditori di pentole per vendere in bassa stagione qualche pacchettino di soggiorno, che gli avrebbero dato a luccio di pollo insalata andata male per 3 giorni e poi 4 giorni, anzi, su questo avrebbero lucrato. 800 24 00 24. Leonardo. Salve. A lei cosa è successo? A me mi è successo che circa 4 anni fa è arrivata una telefonata a casa dove ha risposto mia moglie, dove avevano come promozione facevano un casting per bambine, cercavano giovani bambine per fare, diciamo, nel mondo della pubblicità e nel mondo del cinema. E lei aveva il suo piccolo genio in casa, naturalmente. Io avevo questa bambina con mia moglie che mi ha convinto, perché dato che... Anche ora che si guarda... Quanti anni aveva la bambina? Aveva 8 anni. Era ora che si guadagnasse il pane anche lei, quindi l'ha portata al casting. E allora siamo andati a San Benedetto, abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto questo albergo, era in un grande albergo, e c'erano parecchie persone, perché c'erano più di 20 bambini. Ha fatto questo provino, poi ci hanno... E cosa ha cantato la bimba? Non ho capito, scusate. Cosa ha cantato la bimba? Che pezzo? No, ha parlato, ha gesticolato, ha detto qualcosa, insomma. Quindi non occorreva avere nessuna dote, bastava essere un bambino normale. Ecco, un bambino normale. Poi a un certo punto, quando è finito il provino, ci hanno fatto attendere circa una mezz'oretta, hanno chiamato in disparte e ci hanno detto che il provino, la bambina era interessante, il provino è andato abbastanza bene. E poi quanto vi hanno chiesto? Circa 3.000 euro. 3.000 euro per far cosa? La bambina con 3.000 euro cosa si assicurava? si assicurava, da quello che avevo capito io, che dovevano fare delle foto, un albo per fare delle presentazioni a delle aziende, e queste poi doveva andare a Roma e diciamo, facile intuire quali aziende fossero. Comunque vi siete salvati, siete scappati io via. Io mi sono salvato perché con mia moglie diciamo ci siamo guardati, ci siamo un po'. Non vi è venuto nemmeno un attimo il dubbio? Sì, però. E qualcuno dei vostri colleghi ha sganciato i 3.000? Io ho visto litigare moglie e marito perché la moglie insisteva che era un'occasione diciamo ottima, particolare. E penso che qualcuno il marito non toglieva la cintura dai pantaloni, no, rimaneva lì. Il marito non si toglieva la cintura per spiegare il suo punto di vista. Che ci credeva, praticamente. Va bene, giocano su questo, infatti. Alessia, buongiorno Alessia. Buongiorno. Alessia, lei ha avuto delle brutte avventure? Ma no, sto benissimo, non ho avuto brutte avventure. E allora vuole misurarsi nel nostro casting? Dunque, volentieri, se accettate la mia proposta, io faccio il verso dello scimpanzé. Solo il verso, sì, o riesce anche diciamo a simularlo nelle posture fisiche? C'è anche una mimica alle spalle che mi dispiace che non possiate vedere, infatti. Ma è sufficientemente pelosa anche per essere... Purtroppo no. Non è ipertricotico? Mancherebbe questo. Beh, si mette un vestito di pelo. Siamo un gruppo a casa che ci dilettiamo a volte ad avere questi scambi, questi momenti in cui dialoghiamo facendo questo verso. Ma fate tutto lo zoo o solo scimmie? Solo scimmie, in passato facevo anche bene la gallina, però adesso è un periodo che abbiamo visto molti documentari sugli scimpanzé e quindi niente, è nata questa cosa dal nulla. Vediamo un po', intanto Sansonna, prima che lei inizi, intanto si prepari, si schiarisca l'ugola. Giuseppe, non puoi non citare a questo punto La donna scimmia. Meraviglioso film di Ferreri in cui Tognazzi appunto intuisce le virtù di una Nigi Girardot coperta di pelo ipertricotica e la esalta e la porta in giro anche da morta, quindi lo show continua post mortem. Allora si produca Alessia, si produca nella scimmia. Ok, un attimo che devo respirare un attimo. Sì, sì, faccia gli esercizi di respirazione naturalmente. Ok. È perfetta. Le posso fare una domanda personale? Alessia, io direi che è perfetta. Lei si allena molto, ma le posso fare una domanda personale? Se vuole risponde, se no no. Naturalmente. Nei momenti di intimità con il suo legittimo sposo, lei si produce con questi versi? Non c'è legittimo sposo, si vedrà. Vabbè, con il suo passeggero amante. E lei è richiesta sul mercato proprio perché ha questa maniera di esprimersi che è molto singolare. Ci si sente Tarzan nella solitudine della giungla, nell'avere con lei rapporti. Se lei conosce qualcuno che ha bisogno di una comparsa qui. Allora, se qualcuno ha bisogno. Tribù, abbiamo anche un maschio scimpanzé che è molto bravo nella mimica più che altro. Allora, ce n'è per tutti i gusti. Alessia propone un pacchetto completo fatto di donna scimmia e maschio scimpanzé, alternati insieme, singoli, come volete, per tutti i gusti, capaci di esprimersi vocalmente in questa fantastica maniera. Li vediamo prima una per volta, poi tutti insieme. Lei quando uno di voi fa qualcosa, le altre sono pregate di fare silenzio. Partiamo dalla prima sinistra. Come ti chiami? Anna Pezzi, ho 18 anni, so cantare, ballare, ma anche dire cose intelligenti. Ci fai vedere il tuo profilo, Anna? E se mi chiedete se sono una brava ragazza, io vi rispondo di no. Ah no? No. E come mai? Perché le brave ragazze vanno in paradiso, io voglio arrivare dappertutto. Sì, vabbè. Passiamo all'altra. Come ti chiami? Valentina Ristuccia, e neanche io sono una brava ragazza. Puoi guardare la telecamera quando ci parli, per favore? Sì, certo. Esperienze lavorative? Nessuna. Giuseppe. Questo è Ricordate di me di Muccino, un film più recente del 2003 che racconta appunto l'assalto di tutte queste madri con figlie al feudo televisivo pur di accedere e dimostrare il proprio volto. Il film che in questo Pasolini veramente con Salò è stato realmente profetico, perché quando la camera indugia dei provinatori, indugia sulle natiche, sulla camminata di queste ragazze, c'è proprio una selezione anche da catene di montaggio, cortocircuita col mondo di Sade, con questa ripetizione ossessiva e continua, e anche la simulazione poi degli accoppiamenti. Sì, diciamo il vero ruolo sadico ce l'hanno gli esaminatori, certo. Consapevoli dell'aspetto del ruolo di subordinazione delle madri che si vendono le figlie, dei padri che si vendono i figli, dei figli disposti a fare di tutto pur per passare. E in questo caso, mentre nell'atto sadiano la vittima in fondo si umilia e si mortifica un po' per il suo piacere, un po' per, anche perché è vittima, perché spera e implora la salvezza, c'è soltanto la morte, la fine, la dissoluzione, la tortura. In questo caso la tortura è rimanere nel limbo delle persone comuni e la salvezza è entrare nel mondo dei celebri. Vediamo se qualcuno riesce a superare la nostra ascoltatrice, scimmia perfetta. Claudia, buongiorno. Buongiorno, salve. Io non sono una scimmia, mi sono trovata dall'altro lato della barricata, nel senso che io ho fatto casting e ho proposto da parte casting. Di quelli che danno le noccioline. Esatto, da parte di quelli che danno le noccioline, però in realtà noi ci siamo comportati molto bene, avevamo descritto un profilo, richiedevamo la figura di un VJ, i VJ sono molto oramai ambiti dai giovani di oggi, cioè sì. O vuoi diventare velina o vuoi diventare VJ, per cui la hanno, hanno fatto una retata giorni fa nella Milano da bere del centro, non ce n'era uno in regola, comunque sì. No, non DJ, no, no, VJ, sì, sì, esatto, quelli è la stessa. Esattamente, e la richiesta era tra i 18 e i 24 anni, dovevano conoscere l'inglese come minimo, è un'altra lingua, dovevano essere in grado di essere abbastanza sciolti, abbastanza giovanili e soprattutto dovevano provare a lanciare un video, che è il classico richiesto dalla figura del VJ. La cosa incredibile è che si sono presentati dei personaggi surreali, cioè età improponibili, figure agghiaccianti, anziani, bambini, ma soprattutto la cosa più incredibile che si sono presentate starlet in debacle totale. Una su tutte me la ricordo, non vorrei... No, poverina, non dica il nome. Non dico il nome, però insomma, guardandola io continuavo a dirle, mi scusi, ma lei non ha, cioè ha di più di 24 anni. Sì, ma non c'è problema, ma io sono espertissima, sono in grado di lanciare un video, sono anche un po' imbarazzante. Lo sa, oggigiorno poi più andiamo avanti in questo accentuarsi di crisi palpabile, percepibile, indiscutibile, più tutti ci proveranno. Il mondo dello spettacolo sa quale regole implacabili e quale sottobosco alimenti. Poi l'idea del reality televisivo, che ormai è un genere in totale disuso e disarmo, ha dato l'idea che più uno appartiene al mondo del grottesco, del mostruoso, più ha chance di entrare in quel meccanismo. Quindi nessuno si fida più rispetto alla prima barriera delle indicazioni che danno esattamente le regole, conoscenza delle lingue, età fresca e giovanile. Ci provano perché dicono magari divento un personaggio. Melog. La realtà condivisa. Siamo i figli del pianeta nero. Queste sono le fotografie come ci ha chiesto il regista. Ci tengo a sottolineare che sti ragazzi è il meglio che tu puoi trovare a Roma. Questa gente che c'è le palle grosse così, guarda che c'era uno di loro che non mi convinceva. Allora sono andato a cercarla a Capua. Questo per dimostrarti come sono meticoloso nel lavoro. Capua, via un attimo qua. Non guardare che ragazzino, questo si è fatto 3 anni di galera per aver accoltellato un zio. Di dove sei tu? Di Capua. E perché hai accoltellato tuo zio? Perché mi scassavo cazzo. Ah, per niente. Ma che fai, la comparsa tu? Che faccio io? La comparsa? Io sono attore, regolare iscritto al collocamento, all'occorrenza stampa in scene pericolose. Quando dico scene pericolose mi riferisco a scene dei crolli, terremoti, inabissamenti, stupri, tutto. Te basta? Vabbè. Andate bene per la scena dei meteoriti che vi vengono addosso. A noi non ci frega niente, a noi ci può venire addosso pure in treno. 800 24 00 24, ci rendiamo conto che dopo l'imitazione della scimmia è difficile cercare di toccare vette simili. Vi prego, questa mattina lasciatevi andare, non abbiate timore, non abbiate reticenza. Potrebbe essere la vostra grande occasione. Anche il talento più inusuale, quello che meno potrebbe sembrare è foriero di gloria, potrebbe avere questa mattina la sua grande incoronazione. Giuseppe Sanzon, abbiamo sentito ancora una volta Verdone, che rappresenta nel suo caleidoscopico rassegna di figure e di bozzetti umani anche l'attore aspirante alla casting. Questo era Troppo Forte del 1986. Qui si imitava il mito americano nascente, crescente, che era Rambo, Rocky, e quindi c'è un Verdone che si presenta a Cinecittà con la fascia intorno al collo, capeggiando questi scagnozzi che cercano di accedere a un cinema che era una riproduzione in povero dei colossal americani, quelli meteoriti che vengono da Marte, distruzioni cosmiche, quindi queste faccione della periferia che si presentano, ma lui verrà scartato, sarà l'unico che verrà scartato per la sua faccia da bamboccione, anche lui molto tondeggiante, troppo buono, verrà giudicato dal produttore americano e quindi cercherà appunto di rientrare in altro mondo. Verranno scelti tutti i suoi sottoposti e lui no, lui è escluso. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei è un attore? Sì. quindi appartiene a un'altra categoria rispetto agli aspiranti dei casting, o ha qualche esperienza da raccontarci? No, ho anche esperienze chiaramente di inizio carriera, tra l'altro mi sembrava così divertente citarvene tre. Allora, due sono un noto agente romano importante che voleva appunto favori sessuali per spingere la mia carriera. Vabbè, questo fa parte del gioco, si sa, il divano del produttore ce n'è per tutti, uomini, donne, animali da cortile, quindi... Assolutamente. Sono delle forche caudine, ma quelli che ce la fanno poi, detto fra noi, ma significa che alla fine sono fermati sul divanetto? O sul divanetto, o magari in Italia particolarmente spinti da, non so, politici piuttosto che non altri personaggi, certo. Non è solo il favore sessuale, è comunque un tipo di presentazione importante, diciamo, che poi spesso vi fa andare avanti, no? La cosa interessante è che, ma questo vi parlo del presente proprio. Sì, ma come avviene il tipo di richiesta? Posso fare molto? Io ho visto i documentari con la telecamera nascosta delle Iene. Vanno subito piatti, non ci perdo tempo, cioè tu fai qualcosa per me, io faccio qualcosa per te. Comincia col finto provino, almeno con le donne accade così, facciamo la scena del bacio, vediamo come mi sedurresti, sempre così. Si mette sto trippone sulla sedia lì, tutto sudato, e sta poveretta dovrebbe vedere come lo seduce. Ma anche per gli uomini avvale così? Nel mio caso no, nel senso che comunque eravamo a un livello professionale, diciamo, più alto, più avanzato, nel senso, cioè? non è così trash la cosa, comunque si parla già di attori professionisti, di agenti professionisti, di persone che già sono già inserite nell'ambiente. E quindi l'inserimento viene proposto? No, quindi l'inserimento viene proposto in maniera simpatica, vieni a fare le foto a casa mia o così, devo dire con anche un certo tatto, insomma, non è così trash. Cioè, chi capisce capisce, chi vuol far finta di non capire non ha bisogno di prendere a calci, a pugni o sbattere sul tavolo, se ne va tranquillo. Sì, decisamente. Beh, ci sanno fare il loro mestiere. Beh, chiaro. Sì, anche perché appunto siamo ad altri livelli, ma la cosa curiosa del presente è che ci sono noti casting director di Roma, quindi persone che fanno i casting delle grosse fiction, eccetera, eccetera, che chiedono, questa è una cosa che mi ha detto il mio agente non più tardi di 2 mesi fa, guarda, se ci paghi le bollette piuttosto che... Che è molto credibile di questi tempi, la congiuntura arriva a tutto. Cioè non chiedono cash direttamente, danno in mano i bollettini per andare alle poste a pagare le bollette, ecco questo. Esatto. E anche fare la fila è un onere, io lo capisco. L'aspirante, certo, attore va lì e paga il gas, la luce, la tassa della spazzatura della gente, mi sembra logico. Sandro, sentiamo Sandro. Buongiorno Gianluca, buongiorno Giuseppe. A lei cosa è successo? Dunque, io invece chiamo dalla periferia, perché chi mi ha preceduto credo chiami da Roma. Certo, è la capitale, è il Sancta Sanctorum di tutte le chance possibili. Io ho una lunga vita di musicista per passione, volevo solo portare l'esperienza che ho maturato con i concorsi truffa, o diciamo, chiamiamoli così, perché mi è capitato, per fortuna rarissima, di partecipare al premio Tenco e non mi hanno chiesto un becco di un quattrino, anzi mi hanno pagato tutte le spese. Perché è una cosa seria, perché è una cosa seria. Ma io non so se è una cosa seria, però devo dire la verità che lì non ci hanno chiesto niente. Diventa un'eccezione il fatto che uno va a un concorso e non debba pagare la mazzetta, guardi un po'. Questa è proprio un'eccezione, perché ho partecipato ad altri pure titolati e devo dire, ahimè, ho pagato tanto. Ma sotto che forma viene chiesto? Un contributo spese? Chiedono di solito una tassa di iscrizione, e se lei poi li moltiplica tutti questi soldi per tutti i partecipanti, perché poi più c'è la visibilità, più c'è il nome della RAI, per esempio, poi se vuole le posso fare tanti nomi. No, ma adesso va fatte con ponderazione queste cose quando si parla a un microfono, perché uno deve prima verificare le fonti a cui dà spazio. Quindi lasciamo. No. Comunque diciamo che è una cosa sin troppo risaputa. Esiste una sorta di frammentazione dei personaggi con cui si ha a che fare. Poi nella televisione pubblica c'è il concorso finale, ma all'inizio si comincia paese per paese, comune per comune, proloco per proloco, e lì naturalmente ognuno ci deve avere ricompenso per il suo lavoro, no? Guardi Nicoletti, io chiamo solo per un motivo, sono mosso solo dal fatto che vedo tantissimi ragazzi di grande talento, io ho 53 anni ma vedo tantissimi ragazzi di grande talento, veramente, che ahimè non hanno il carattere per reggere certe botte che dà la vita e sono veramente bruciati in una maniera ignobile da questi personaggi, e secondo me chi ha la possibilità dovrebbe fare qualcosa, perché veramente talenti rari vengono sprecati inutilmente. Lo so, però anche il talento raro deve capire che oggi ci sono strumenti di smascheramento di questi meccanismi. Basterebbe guardare le Iene, ma leggere i giornali, orecchiare ciò che c'è in giro. Se ancora uno casca in cose del genere, vuol dire che proprio se la va a cercare, vuol dire che è senza remissione. Patrizia. Buongiorno. A lei cosa è successo? È successo 20 anni fa, quando non c'era internet, mia figlia, una bellissima bambina allora di 3 anni, ho partecipato a Non è la Rai, il programma di... Sì. Per cui... Quanti anni aveva sua figlia? Adesso ne ha 23. Ma allora quante ne aveva? Ne aveva 3. Sì, a 3 anni Non è la Rai, ma scusi, le più giovani avranno avuto 15 anni. Partecipava alla trasmissione con Orietta Berti, che faceva cantare i bambini. Ah, vabbè. E niente, tutti quanti, che bella bambina, perché non le fa fare dei casting, dei provini? Insomma, mi hanno un po' invogliato. A 3 allora, anni? A 3 anni, sì. A 3 anni, uno se no che... Uno se no che riesce a articolare, mamma dammi la pappa, non lo so, vabbè. Però sa com'era, una bella bambina un po' particolare, per cui... E c'era di particolare? Aveva i capelli rossi molto lunghi fino a... Vabbè, ogni scarafone è bella mamma sua, è chiaro. Comunque era una bella bambina. Pippi Calze Lunghe bella... poteva fare, vabbè. Allora... Sì, era tipo Pippi Calze Lunghe. Ma già c'era quella. Insomma, mi lo sono lasciata invogliare, ho cominciato un po' a informarmi, ho trovato una società, mi ha fatto fare dei provini, ha fatto fare dei book, delle quanto foto, ha speso? Tutto. Quanto ha speso? Quanto ho speso? Allora ho speso 1.600.000 lire. Non è poco allora, quegli anni. 20 anni fa. Poi però dopo, ovviamente, non contenta, perché ero proprio cretina, perché ovviamente si deve dire proprio così. Ma si guarisce comunque. Ne ho fatto un altro. Per 800.000 lire. E quanto aveva la bambina al tempo? Anche sempre 3 anni? Sempre 3 anni. Quella è stata l'arco della vita in cui aveva tutte queste esperienze. Sì, poi alla fine ovviamente ho visto la bufala che poteva essere, alla fine ho detto ma sono stato proprio cretino. E adesso cosa fa sua figlia? No, adesso mia figlia è laureata. Ma cosa fa? Che professione? No, è laureata in scienze del turismo, per cui adesso è in Germania a lavorare per imparare anche il tedesco. Quindi lì dei capelli rossi non gliene importa niente a nessuno. No, quindi. Adesso a lei non interessa più niente. Insomma. Va bene, come vede. Però io, amore di mamma, come dice lei, ogni scarafone per la mamma sua, per cui ovviamente il discorso era solo quello. Ma lei avrebbe sognato di fare lei l'attrice, l'artista? No, assolutamente. Perché lei non ha i capelli rossi. Non ero nelle condizioni, no, io no. E no, mi piaceva questa idea che mia figlia, Lo so, piace a tutti, da Anna Magnani in poi è stata una scuola. Con il boom economico abbiamo capito che i nostri figli possono essere anche artisti, oltre che lavorare. Grazie, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Melog. La realtà condivisa. Sta Jenny Flaura, imbriacato di fotografie tutti i giornali. L'ha mandata pure al Corriere dei Piccoli. Gli è costata una tombola e ne ha pubblicate nessuno. O vedi che Bordino non aveva uno che ti rappresenta? Gagliarda questa. No, senti, però farsi fotografare così, oh. Ma se capisci, così si fa, senza trucco e senza inganno, Ma questo non si può mica pubblicare. Non fa niente, intanto circola. Nome e telefono di dietro, la vedono, la chiamano e compagnia bella. Tu così intanto vuoi fare? Che mi rappresenta sta fotografia? Col gonnellino, il reggiseno, guarda qua, mi sembri una monaca, mi sembri. Dammi una sigaretta, va. Non le porto per le ammervizio, ma che... Apri, Gianfan. Sì. Direttore, ci siete vestiti? Sì, apri. Giuseppe Sansonna, perché sono sempre degli infami, morti di fame, approfittatori, questi agenti, questi procacciatori di fama? Qui siamo almeno nella fiction è sempre così, sono sempre dei poveracci alla fine. Qui siamo in pieno boom, però la dimensione umana è la stessa tratteggiata dall'attore prima che parlava della questione delle bollette. Questo è un capolavoro del cinema italiano, io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli, con la Sandrelli giovanissima che arriva dalla provincia. Gli scrocca la sigaretta. Toscana e trova Cianfanna Manfredi che appunto gli scroccherà la sigaretta per fargli fare un book da 10.000 lire, lo porta da un vecchietto che con questa macchina da scrivere priva di tasti gli scriverà queste didascalie per la spesa di allora. 10.000 lire era una cifra enorme. E poi con questa 10.000 lire se ne andrà a mangiare dal Bugliaccaro con la moglie vecchietta, anche lì, cioè, abbiamo sempre saputo che non sapevi cucinare, spariranno, con questi soldi si delegueranno così. Insomma, era questa la dimensione, il sottobosco in cui si muove la Sandrelli. Era allora quello del cinema, ai margini del cinema, oggi è passato alla televisione, con semplicemente il carico mitico si è abbassato ulteriormente, ma come se l'esistenza, la reale esistenza potesse essere solo davanti allo schermo. Però esiste un contrappasso, in realtà questi violano la loro naturale condizione di essere sfigati. Perché la Sandrelli vuole diventare una grande attrice? Potesse una brava, buona ragazza, splendida amante se voleva. Vogliono, è il passo più lungo della propria gamba che giustamente porta alla punizione di finire nelle mani di profittatore. Sì, ma l'impulso è appunto che non si possa vivere se non nella finzione, in un eterno spettacolo permanente. Su questo non ho nulla al contrario, sono d'accordissimo. Sì, ma una finzione privata, anche noi, per carità. Noi stiamo vivendo dalla finzione. Certo, è una finzione privata, però se finisce questa e ne comincia un'altra non importa. A proposito di finzioni, forse abbiamo un aspirante alla palma del miglior artista di Melog di questa mattina, Giorgio. Ciao, buongiorno Nicoletti e buongiorno Sansone. In cosa si può produrre lei? Io mi posso produrre in quella che è un po' la mia specialità, è nell'imitazione di Luciano Moggi. Ecco, con tutte le intercettazioni che sono girate, non si faccia sentire, perché già ai tempi si diceva che Noschese imitava Andreotti in cose del genere. Quindi comunque, vediamo se lei è credibile nella voce di Luciano Moggi e poi se ne prenderà le conseguenze. Che dirti Nicoletti? Io... ti posso dire che apprezzo molto la tua trasmissione, in special modo quando usi la motosega per segare i clienti. Allora, fermo un attimo, io di calcio non capisco nulla. Sansonna, che è un grande esegeta di personaggi del calcio, Zemallandia. Soprattutto un grande esegeta del nemico numero uno di Moggi, qui posso dire che è perfetto. Insomma, è Perché Zeman è il nemico di Moggi? Beh, soprattutto Moggi è il nemico di Zeman, odia Zeman perché appunto per è tutta fatto una serie bene di questo Moggi. È perfetto, devo dire che è commovente nella perfezione timbrica, riesce bene a rendere Batrace itterico. Moggi è reso perfettamente. Beh, lei avrebbe un avvenire se Moggi l'assume come sua controfigura orale, potrebbe essere perfetto a questo punto di vista. Le faccio i migliori auguri, l'avranno sentita in moltissimi, molti la chiameranno, potrà fare scherzi radiofonici, essere scritturato per fare la voce di Moggi, intervenire quando vuole, dove vuole, in ogni maniera che lei preferisca e dire ciò che vuole naturalmente con la voce di Moggi. Si faccia pagare bene però, perché il suo è un talento che merita il giusto compenso. Cristiano. Sì, buongiorno signor Nicoletti. No, niente, io volevo raccontare anch'io la mia. Sono stato un po' una vittima, forse un po' bambascione, come si dice. Sono andato anch'io in una di queste agenzie di casting, una abbastanza nota a Milano. Ma lei cosa sa fare? Adducendo quale talento? Ma io innanzitutto sono stato convinto dal mio amico che c'era questa agenzia che cercava nuovi volti per la pubblicità. Ma lei perché è bello, particolarmente avvenente? Qual è il motivo? Beh, diciamo che non sono brutto, via. No, non faccia il modesto, è una cosa professionale. Lei è un bel ragazzo. Certo. Sì, diciamo che sono un bel ragazzo e niente... Cioè, ha curato il suo aspetto fisico, si è depilato le sopracciglia, si mette cremine, va da un bravo parrucchiere, scolpisce il suo fisico con muscoli iper evidenziati. Cosa ha fatto per essere bello? No, tutto questo no. Penso, cioè, sono una persona normale. Beh, è andato lì e ha detto, sono un bel ragazzo, vorrei fare cinema, televisione, spettacolo e quant'è. E loro hanno detto, ma sì, certo. No, e sinceramente questo io non sono andato lì così, cioè praticamente loro mi hanno riempito di complimenti e mi hanno detto c'è la possibilità di fare questi casting, ti chiamiamo noi, dopodiché mi hanno detto se ci credi alla tua immagine devi investire, quindi e certo, praticamente, sennò loro di che vivono? C'era un prezzo da pagare. E quanto è stato il suo prezzo? Allora, io gli dico che era ancora in lire, erano 2.400.000 lire. Che per un ragazzo non è poco. No. E in cambio cosa le hanno dato? In cambio di questi 2.400.000 cosa le hanno dato? Guardi, in cambio a quello che mi hanno dato, mi hanno dato solo un book, un album fotografico, sì. E da lì in poi non si è sentito più nessuno, al che io sono anche ritornato là per chiedere indietro i soldi e loro mi dicevano no, ma tu ci dovevi credere sulla tua immagine, dovevi andare in giro a procurarti il lavoro. Quello che invece loro mi avevano detto, che erano loro che mi procuravano vabbè lavoro, questo è un altro tipico meccanismo, illudono le persone. In realtà loro vendono book fotografici a prezzi esorbitanti, esatto. a 100 volte il prezzo di un po' di foto. Marco, buongiorno. Salve, senta, io sono un ragazzo giovane, ho 20 anni, però penso di saper fare abbastanza bene l'imitazione di Umberto Bossi. Provi, magari potrebbe attualissima. A totale utile, in questi giorni poi magari aspetti un attimo prima di farla in pubblico, perché questi giorni non è proprio nel massimo del fulgore dell'immagine, però proviamoci, sentiamo. Buongiorno Nicoletti, io sono Umberto Bossi, mi sono a pensare molto a Padania, a una banca del nord, io Calderoli. Bisogna fare questo nuovo federalismo fiscale, perché ormai in Italia ci sono... No, guardi, mi dispiace lo dire, la fa molto meglio Parenzo, è molto più credibile Parenzo. E poi questa radio, già il ruolo di Bossi finto è già occupato splendidamente da Parenzo. Mi spiace, qui almeno non ha spazio, ma provi, veda che in questo momento magari a Bossi potrebbe servire un suo imitatore, anche se poi può essere migliorato. Chiudiamo con Arrigo, buongiorno. Sì, buongiorno, no, sono d'accordo anch'io che ci sono dei boss migliori. Sì, sono i boss. L'originale è inimitabile. Sì, ma quello che fa Parenzo ha ingannato tantissime persone, quindi è molto più credibile di questo signore. No, avevo chiamato dicendo alla vostra gentile collaboratrice che mi vergogno ancora oggi di quello che mi è successo una ventina d'anni fa, perché io record ho coinvolto mia figlia che non aveva ancora un anno. Perché ho ricevuto una richiesta. Sotto l'anno cosa può fare un bambino? Che può fare un bambino sotto un anno, oltre cacca, pipì, pianto e vomito? Che altro può produrre? No, ma infatti, perché era proprio una richiesta per pubblicità, per l'infanzia, per cui quelle pubblicità dove sono questi bambini bellissimi che fanno ciao con la manina. E chiaramente da genitore abbiamo la figlia più bella del mondo, andiamo a vedere, no? Sì, tutti ma pensiamo. Io già subodoravo, però dico, pensa quando entri in quelle situazioni dove lo so che sto facendo una cavolata, però la devo fare. Allora siamo andati a vedere e ho capito immediatamente che era una bufala, perché questo presunto casting dove c'era un presunto regista che faceva queste presunte riprese, aveva una telecamera che era anche abbastanza professionale, ma non era collegata a niente, c'era proprio il filo di collegamento video staccato. E ancora non esisteva il wireless. C'era proprio evidente la cosa. E quindi era no? Tipica, il tipico ambiente sola, lei ha ripreso il suo fagottino amoroso, se l'ha riportato a casa. Grazie Giuseppe Sanzonna, grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti. Oggi non abbiamo regalato al mondo dello spettacolo nuovi talenti, ma ahimè ce ne doliamo.